Cari amiche, cari amici, bentrovati, buonasera, è martedì e questa fredda Bruxelles che pare non ci dia tregua ormai da qualche mese. Questa sera sono estremamente contenta perché è una puntata veramente ricca e parliamo di temi importanti, di temi dei quali probabilmente non abbiamo molto parlato in questi mesi, però insomma per fortuna riusciamo a parlarne e riusciamo anche a parlare con un ospite. Che sono molto felice di avere qui al telefono questa sera. Aspettando i nostri George e Fiordaliso che sono in arrivo, direi se tu, Daniele, sei d'accordo di chiamare già il nostro Fabio e di avviare l'intervista. Intanto magari possiamo già accennare qualcosa di Fabio Cavallari, giornalista e scrittore. Dal 2002 collabora con il settimanale Tempi. Ha curato anche alcuni speciali per Radio 2 ed è stato relatore in molti incontri in molte città italiane su temi bioetici, politici e culturali. E questa sera è qui con noi per presentarci un libro la cui forza non solo emotiva, ma proprio forza vera, forza per la vita, è palese ed è tangibile. Infatti ha scritto Vivi, storia di uomini e di donne più forti della malattia, edizione Lindau 2010. E cogliamo anche l'occasione di ricordare che Fabio sarà a Bruxelles giovedì, quindi dopodomani, presso l'Espace Monte dei Paschi, giù da Verghem. Quindi per quanti fossero all'ascolto e volessero anche conoscere Fabio di persona e ascoltarlo di persona, vi invitiamo quindi ad andare alla Monte dei Paschi. Fabio! Oh, ben trovato, benvenuto. Noi veramente siamo felicissimi di essere riusciti a strapparti. Diciamo dai tuoi eventi, perché so che sei insomma in un brulichio di attività. Io ho accennato brevemente, magari hai potuto ascoltare qualcosa, insomma, mentre eri in attesa della tua biografia, però magari c'è qualcosa che vorresti sottolineare, qualche aspetto a cui magari io non ho dato la giusta attenzione? No, io credo che non serva dare aggiunte alla biografia. Io diciamo che la mia intenzione e quindi anche in qualche maniera la mia presenza oggi in radio è quella di raccontare nel mio libro Vivi, Storia di uomini più forti della malattia, perché il mio intento è quello di dare voce a chi generalmente voce non ne ha. Quindi io è come se offrissi il microfono, la telecamera, insomma uno spazio di attenzione per quelle tantissime persone che pure con malattie estremamente invalidanti decidono con le loro famiglie di affrontare una battaglia, la battaglia più importante, credo, per la vita, è quella per la vita. Come mai questa scelta proprio di occuparti di un tema che sicuramente non è facile nemmeno descrivere? Da dove nasce, da dove prendi spunti, insomma, da che cosa è nata questa idea? In Italia sicuramente questo è stato un tema molto dibattuto negli ultimi anni. Si è discusso moltissimo delle malattie e soprattutto di quelle malattie che generalmente non lasciano scampo. Diciamo che la maniera in cui è stato affrontato a me non è piaciuta molto. Perché? Perché si è discusso di malattie e di ammalati e si è posto l'attenzione quasi esclusivamente sul fine vita, sul fatto che la libertà di scelta deve concedere la possibilità alle persone di scegliere la loro morte. Questa è una visione su cui non voglio entrare in giudizio e in polemica, ma mi sono accorto questo facendo la mia attività di giornalista e di scrittore, di incontrare moltissime persone e anche quindi moltissime famiglie che vivono magari a domicilio, a casa, a domicilio, con i propri cari e con propri cari che sono non certo in perfette condizioni fisiche. E di cosa mi sono accorto? Mi sono accorto che c'è un panorama ampio, molto variegato, di famiglie e di persone che chiedono altre cose dal fine vita, ma chiedono quello che a me piace chiamare il diritto di cittadinanza, cioè la possibilità di poter vivere anche in condizioni limiti con tutti gli ausili disponibili nelle loro abitazioni, accanto ai loro familiari. Mi sono accorto così di vivere in un paese dove ci sono delle situazioni sicuramente difficili, ma con un animo e con una volontà di stare accanto a queste persone straordinaria, comunità di persone, volontà amici che per non un giorno, due giorni, ma magari per anni si rendono partecipi nell'aiuto alle famiglie. E allora io ho voluto fare questo, dare voce a queste situazioni che sempre più spesso vivono nell'ombra, nel senso che nessuno ne parla, come se non ci fossero. E invece è uno spaccato che a mio avviso merita attenzione, perché poi sono fatti che sembrano lontani, sembra che non ci toccano, ma come spesso accade, purtroppo le malattie arrivano da un momento all'altro, e quindi anche chi non se lo aspettava si fa prova ad affrontare una situazione difficile. E che cosa accade? Che tutto quello che noi abbiamo pensato in perfetta forma fisica quando stavamo bene è un pensiero che è viziato appunto dal fatto appunto di non potersi percepire in una situazione in cui non si è, quella dell'ammalato. Il passo dell'ammalato è completamente differente da quello di una persona sana. Ecco, questo è stato, diciamo così, il motivo che mi ha spinto a raccontare le autostorie con dei bambini. E secondo te come cambia la vita di una famiglia nell'impatto con la malattia? È evidente che le famiglie si ritrovano a cambiare completamente il loro modo di vivere, perché da un giorno all'altro quelli che erano i perimetri soliti, certi, vengono completamente confusi, cambiati. Molte famiglie si ritrovano da sole, c'è una prassi purtroppo che è quella dell'abbandono, a volte anche in buona fede. Ci sono gli amici che hanno difficoltà a entrare ancora in quella casa, e quindi qui si muove davvero tutto un meccanismo, la forza della famiglia di riuscire con tutti i limiti del caso a ristabilire una normalità, cioè il fatto che l'ammalato è una persona semplicemente che non ha più le potenzialità di prima, ma la necessità di vivere accanto a una comunità. Di fronte a questo la società civile deve essere davvero molto attenta, c'è un grande bisogno di quello che mi piace chiamare un pensiero affettivo. A proposito di pensiero affettivo, secondo te il rapporto che si instaura con i medici, che comunque credo siano insomma uno degli elementi più importanti durante la malattia, il rapporto positivo, il rapporto fruttuoso, insomma, si riesce a instaurare un rapporto tra medici e pazienti? Allora, bisogna dire che non bisogna mai generalizzare nulla, è tutto, anche perché la medicina sta progredendo, la scienza sta progredendo, tutto sta cambiando anche molto velocemente, anche soltanto da 15 anni a questa parte, per cui è evidente che ci sono degli aspetti sicuramente positivi da sottolineare, dove si crea un'alleanza terapeutica tra medico, famiglia e ammalato, dove la parola speranza diventa davvero una parola che ha al suo interno un significato e un senso reale. Ci sono altre situazioni dove, perché c'è una carenza da un punto di vista anche strettamente di conoscenze mediche, oppure semplicemente perché gli uomini, anche se sono medici, sono uomini, quindi non sono tutti perfetti, magari le situazioni non sono così positive. Io ho narrato nel mio libro sia situazioni sicuramente edificanti, sia purtroppo situazioni dove questo aiuto, questa umanità a volte viene a mancare. Invece per quanto riguarda la burocrazia, so che è un parolone, però penso che anche con gli ospedali e con i medici stessi ci sia anche un ulteriore ostacolo da sormontare. Che cosa ci puoi dire in merito? Sì, c'è una problematica che riguarda non tanto l'assistenza all'interno delle strutture. In Italia c'è il problema quando la persona malata fa ritorno a casa. A volte parlo ovviamente di malati estremamente invalidati, di persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, che quindi hanno bisogno di un ventilatore, di essere alimentati attraverso il sondino, quindi persone compromesse dal punto di vista fisico. Quando le persone vanno a casa, spesso esiste un grosso problema, perché tutti quelli che dovrebbero essere gli ausili e l'assistenza domiciliare, che è garantita per legge, poi diventa difficilissimo poterlo ottenere, e in questi casi succede che i familiari diventano davvero dei martiri per riuscire a districarsi nelle varie burocrazie, nei vari documentazioni da portare, riportare, e questo è un elemento che è negativo. farlo non è soltanto un fatto che poi riguarda la legge, è un fatto che poi può incidere nel rapporto anche con la persona malata, perché è evidente che quando il malato si accorge che accanto a sé ai propri cari che diventano davvero si prodigano e non sanno più dove sbattere la testa, anche la persona se ne accorge, quindi ovviamente la sua voglia di lottare viene meno. Fabio, sono Dani M della regia. Ti volevo chiedere una cosa, perché uno degli argomenti di cui tu stai parlando di fatto è la non autosufficienza, che è un tema che colpisce, diciamo, moltissime persone. Tu hai parlato di famiglia, quando uno la famiglia non ce l'ha o non c'è la famiglia, secondo te che cosa avviene in Italia rispetto ai malati, alle malattie? C'è un aiuto, c'è un volontariato, ci sono delle strutture, c'è un intervento pubblico, o è lasciato all'inventiva, diciamo, delle persone, anche se non sono familiari, che stanno vicino ai malati? Allora, da un punto di vista del legislativo non ci sono dei buchi che andrebbero sanati da questo punto di vista, o perlomeno non sono dei buchi così evidenti e così macroscopici. Spesso c'è una differenza, ad esempio, tra regione a regione e a volte ancora più spesso tra un ASL e un'altra ASL. A volte viene a mancare un coordinamento, quindi pur a fronte di diritti e leggi esistenti esiste un problema di mettere assieme tutte le conoscenze che si vengono a creare. Io però tendo a dire anche un'altra cosa: anche nel momento in cui tutto è perfetto, anche nel momento in cui lo Stato garantisce la possibilità di assistenza e di cura all'interno delle strutture, se viene a mancare l'aspetto, come dicevo prima, affettivamente sensibile, quindi quello della famiglia oppure quello di una cerchia di amici o di volontari, davvero si inserisce il problema forse più grande, che è quello dell'abbandono, che è quello della solitudine. Uno dei rimedi, diciamola così, più importanti per la persona che ha una problematica riguardante la sua vita è quello di non essere solo, di sentirsi accanto una compagnia di amici che possa fare protezione, che possa costituire una rete comunitaria. Ci sono moltissime situazioni di volontariato in Italia e devo dire che sono davvero quelle che spesso salvano delle situazioni che altrimenti sarebbero davvero di abbandono. Fabio, abbiamo parlato dei medici, abbiamo parlato della burocrazia, delle famiglie, e in tutto questo invece il ruolo dello scrittore, il ruolo che tu hai avuto rispetto alle 8 storie che hai raccolto e di cui ci racconti questa sera. Io ho davvero voluto essere colui che ha fatto un passo indietro rispetto al suo preteso, anche ai tutti i pensieri o le idee che potevo avere. Io ho deciso di fare questo lavoro e mi sono messo in qualche maniera in cammino. Quando si fa un viaggio, certo, si sa dove si vuole arrivare, ma è bene tenere presente tutti i passi che si fanno. Nella stessa maniera del viandante, sono entrato in contatto con le famiglie, con le persone malate, con chi non poteva parlare, quindi con i parenti, i cari che mi introducevano nella storia, e io ho fatto una cosa che è davvero semplice: è offrire loro la possibilità del racconto, offrire loro la platea per poter finalmente raccontare la loro esperienza. Il mio lavoro è stato questo, il ruolo di colui che non vuole produrre un giudizio ma vuole raccontare la realtà. Questo, secondo me, soprattutto su questa tematica, è un punto fondamentale. Tutti noi generalmente tendiamo a ragionare attraverso dei principi, che è bene che ci siano, ma spesso rimangono principi astratti. Senza toccare la realtà non si fa davvero un buon servizio, non si fa un buon servizio alle persone, non si fa un buon servizio alla verità. Prima di salutarci, c'è una storia, so che è difficile come domanda, ma un qualcosa che ti ha colpito particolarmente mentre scrivevi e che magari puoi condividere con noi? Ma devo confessare che fare un torto a una storia piuttosto che un'altra, indicandone una a discapito di qualcun'altra, ogni storia mi ha permesso di entrare in contatto con un mondo che non conoscevo e soprattutto con delle persone che poi hanno costituiscono oggi il mio portato di esperienze. Voglio semplicemente sottolineare la storia di Giulia, perché anche perché è la storia che oggi mi porterà a presentare il libro a Bruxelles, ed è la storia di una bimba che non sarebbe dovuta nascere, diciamo così, perché i medici avevano, quando era ancora nell'utero della madre, avevano riscontrato un'anomalia cerebrale molto invalidante, l'avevano considerata, la consideravano se nel momento in cui nasceva un vegetale. La famiglia ha deciso di portare a termine la gravidanza e oggi Giulia, pur avendo confermate tutte le anomalie che erano state segnalate da un punto di vista medico, oggi non è affatto un vegetale, è una bimba che esprime affettività, che dimostra simpatia e antipatia, che ha trovato un modo per essere viva ed è un esempio per tutte quelle persone che avevano pensato che lei non doveva neppure nascere. Fabio, noi siamo veramente felici di questo tuo intervento. Ti auguriamo comunque un'ottima presentazione giovedì, quindi ricordiamo giovedì 10 febbraio alla sala della Banca Monte dei Paschi in Avenue del Gem 22-28 e speriamo anche per incontrarci. Buon lavoro, a presto e buona serata. Buona serata a voi. Ciao. Ed eccoci nuovamente qui. Eccoci qui. Vivi era effettivamente il titolo, insomma, di questa bellissima canzone di Giorgia, che sembrava essere effettivamente la più opportuna per la puntata di questa sera. Ringraziamo ancora Fabio, intanto i nostri George e Fiordaliso sono qui con noi e abbiamo anche un altro ospite. E in realtà la puntata di stasera è veramente ricca, ricca anche di temi che soprattutto in Italia sono molto attuali. La scrittrice che intervistiamo stasera è alla sua prima opera, si chiama Sara Rattaro, e ci presenterà Sulla sedia sbagliata. E siamo veramente felici da un lato perché Sara è una giovanissima autrice, ma ha dimostrato un talento innanzitutto narrativo. Il libro è breve, sono forse 150 pagine se ricordo bene, però si legge rapidamente, velocemente, e veramente vi raccomando di leggerlo. Sono tanti i temi che... 157 per esattezza. Ecco, vedi, ho sbagliato di 7 pagine. Sono tanti i temi che si ritrovano in un contesto, soprattutto quello italiano, che forse per alcuni momenti, per un certo tipo di informazioni, eccede. Sara invece è stata veramente brava a raccogliere, così come il nostro Fabio prima, più storie che in un certo senso si incontrano senza incontrarsi realmente, storie che però vivono perché l'una ha bisogno dell'altro, storie che si nutrono di speranze, si nutrono di amore, si nutrono dall'altro lato purtroppo di sofferenza. E anche la storia di giovani, di famiglie, la storia di madri, la storia di persone che possono continuare a vivere ed essere attaccati alla vita proprio perché ce ne sono altri che purtroppo lasciano questo mondo. E poi c'è questo tema che questa sera, come avrete potuto capire, ritorna, che è l'attaccamento per la vita, quindi è come un po' una scommessa, come se fosse un po' effettivamente vivi davvero, come per l'appunto ci cantava la Giorgia poc'anzi. Quindi io per la prima volta mi sento un po' in difficoltà, spero che i 20 minuti presso poco di cui disponiamo questa sera siano sufficienti a far emergere la scrittura di Sara e le storie che Sara ha descritto. Quindi speriamo che il tempo tiranno questa sera sia un po' almeno una volta più clemente. Sara! Pronto? Pronto? Sara? Sì. Ciao, benvenuta a Bruxellando. Grazie a voi. Eccoci qua. Spero tu ci possa udire bene. Questa sera stranamente sento i microfoni un po' ballerini, quindi direi che ti sento abbastanza bene. Benissimo, allora benissimo. Ho accennato brevemente, insomma, che Sulla sedia sbagliata è il tuo primo romanzo, però insomma prima di arrivare a questo tuo lavoro, magari se ci puoi raccontare della tua passione per la scrittura, quando nasce e insomma un po' il tuo percorso di scrittrice. Beh, è una passione scrivere, è difficilissimo riuscire a datare una passione, perché credo che le passioni più o meno nascano insieme a noi, probabilmente cominci a riconoscerle solo nel momento in cui ti servono. E io sono cresciuta scrivendo così come potevo, e la scrittura è sempre stata un po' una sorta di ancora di salvezza, di rifugio sicuro, un luogo dove mi sono trovata, ritrovata, capita, odiata, corretta, no? Quindi è un modo per tirare fuori quello che sei, un'esigenza. Quello che forse è cambiato poi crescendo, in un momento in cui io definisco sempre un po' come la mia maturità, è stato che a un certo punto questa voglia di scrivere si è trasformata in voglia di essere letti, che è un passaggio difficilissimo, delicatissimo, soprattutto per chi scrive, come dico sempre io, un po' di pancia, di cuore, no? Perché è un modo in cui, il momento in cui, diciamo, offri quello che scrivi agli altri, e quindi diventa una cosa un po' più pubblica, ed è davvero difficile, difficilissimo, perché scopri che chi non ti conosceva continuerà a non conoscerti e non si farà poi più di tante domande su di te. Chi ti conosceva molto bene probabilmente ha avuto delle grandi conferme di quello che immaginava. Poi c'è tutta quella grandissimo spazio di persone che in realtà che pensavano di conoscerti molto bene e scoprono che forse c'è qualcosa che non hanno capito, e quindi sei un po' così, diciamo offri dei pezzi di te a chi decide ovviamente di leggerti, e insomma devi un po' incrociare le dita, no? Devi farti un po' andare bene questa cosa, perché ovviamente è una cosa bellissima, perché da un lato non vedi l'ora, no? Uh-huh. È anche una cosa che fa un po' paura. Quindi direi che il grosso cambiamento è stato quello. Poi cos'era scrivere, era qualcosa, e fortunatamente lo resta, è ancora qualcosa di molto mio, di molto personale. Ci sono ancora tante cose di me che vengono scritte, che mi accompagnano, che mi aiutano soprattutto, no? Che mi fanno compagnia, ecco, questo sì. L'inferno non ha gironi né anelli, e non è neanche una discesa. È solo una sensazione che ti pervade. Le gambe diventano immobili e il sangue gelido ti si ferma nelle vene. L'inferno è quello che provi quando ti giri verso il passeggino di tuo figlio e lo vedi inspiegabilmente vuoto. E aspettare al buio, seduta sul letto il suo rientro, la prima volta che guida la tua auto da solo. E aspettare nella corsia di un ospedale che l'operazione sia riuscita e che il suo cuore batta ancora. Il tuo romanzo è ricco di storie. Storie che da un lato probabilmente non si incontreranno mai, che però hanno bisogno di essere raccontate. L'una non potrebbe esistere se non avesse l'altra. E c'è questo attaccamento alla vita, da quello che almeno la nostra lettura e visione, parli di giovani. E non so se ci vuoi raccontare qualcosa di più di questo aspetto, e di raccontarci magari del protagonista, di Andrea. Guarda, i giovani sono la parte della vita che a me affascina di più. Io rimango veramente, veramente colpita, attaccata a tutti i fatti di cronaca che coinvolgono i giovani, perché in realtà mi stupisce sempre molto questa età che viene definita un po' così, l'età bella, no? L'età che tutti si ricordano quando si pensa, ah, ma quando eravamo giovani facevamo, andavamo ai tempi passati. In realtà è una, secondo me, l'adolescenza, la post-adolescenza, la giovinezza è un'età difficilissima. Condivido. Perché lo spirito di appartenenza e lo spirito di, invece l'individualismo picchiano l'uno con l'altro, e quindi riuscire a trovare un ruolo, un'identità è qualcosa di complicato. Quando succedono delle cose che coinvolgono i giovani io rimango sempre un po' coinvolta, cioè mi incuriosisco, e mi incuriosisce sempre riuscire in qualche modo a contestualizzare queste situazioni, cioè perché un ragazzino perde il controllo e fa qualcosa così più grande di lui, dove diciamo, la crudeltà è proprio intrinseca all'inconsapevolezza di quello che magari ha fatto, e mi piace cercare di capire in qualche modo il contesto sociale. Un contesto sociale che, diciamoci la verità, se dietro un carnefice ci fosse una famiglia altrettanto discutibile, sarebbe un'equazione molto semplice e lineare, mm-hmm. in qualche modo metterebbe d'accordo tutti. Spesso e volentieri si trova un contesto sociale che o assomiglia molto a quello che abbiamo o assomiglia molto a quello che vorremmo avere, quindi dei contesti sociali magari più tranquilli o quantomeno più tranquillizzanti. Quindi c'è qualcosa che non torna nell'equazione, e questa è la cosa che mi incuriosisce, no? E infatti ci sono due famiglie, poi le due famiglie principali, esatto, tra le storie che racconti ce ne sono due in particolari che emergono, ci sono anche due madri, o meglio due profili di madri. Da di mamma, perché scusami se ti interrompo, ma la sì, mamma, sì. Ecco, vorrei che sulla sedia sbagliata è veramente un omaggio alla maternità, per quello che mi riguarda, nel senso che questo ruolo così complicato, così difficile da imparare, così bello, così profondo, che richiude tutti i tipi di sentimenti, e mi piace l'idea che ne venga fuori, perché io a queste mamme devo dire che le ho inserite in delle situazioni difficilissime, le peggiori che si possano trovare, ma le faccio uscire, spero, con una grandissima dignità sentimentale, di amore, di forza, e nasce da un profondo rispetto che ho nei confronti di questo ruolo, e nasce da questa, anche un po' questa mamma meravigliosa che ho, che un giorno, poveretta, è stata un po' la mia vittima, perché quando decisi di scrivere questa storia così difficile, le chiesi, presi lei ovviamente, era il mio punto di riferimento principale, quindi io le chiesi, mamma, ma tu, in una situazione così difficile, in una situazione così forte, tu quale ruolo preferiresti avere tra la mamma di una vittima o la mamma di un carnefice? Uh-huh. E lei mi rispose con moltissima naturalezza, la mamma del carnefice, che avrei ancora il figlio. Che è anche uno degli argomenti che poi ritorna, no? Ritorna anche quello della vita e quello della morte. Però questo sentimento che tu racconti per le madri non si ritrova spesso corrispondente nei figli. Secondo te è dovuto a che cosa? Qual è il distacco più importante che a un certo punto si crea? Ma guarda, io penso che questo ruolo della mamma sia un ruolo che va a 360 gradi, cioè nel momento in cui diventi mamma probabilmente hai capito tutto, in qualche modo dal punto di vista sentimentale, no? Cioè, e sai esattamente che cosa devi fare. L'identità di un figlio è in realtà quella che poi abbiamo vissuto tutti, molto più complicata, molto più distaccata, nel senso che riuscire in qualche modo a esprimere tutti i tipi di sentimenti, riuscire a capire anche le conseguenze delle proprie azioni è qualcosa di molto molto molto difficile, quindi c'è una forma di egoismo in qualche modo, l'idea anche di essere così, in certo senso immortali, no? Questa sensazione di immortalità che ti dà l'età giovane, no? L'idea che comunque qualunque cosa tu faccia in qualche modo andrei avanti, mentre le preoccupazioni di una mamma ormai sono dall'altra parte della barricata, non le hanno vissute queste cose e sanno benissimo che invece i rischi che si corrono sono forti, fortissimi. Quindi c'è questo dualismo pazzesco, no? Queste mamme che in qualche modo cercano sempre di sistemare le cose, che è un po' quello che dicevo quando mia madre mi ha risposto, preferirei essere la mamma di un carnefice perché avrei ancora il figlio, che significa avere qualcosa di cui potersi preoccupare, potermi preoccupare di te è molto molto molto, anche se sei ovviamente in un carcere, anche se sei in un posto dove io non ti posso neanche più toccare, in realtà è molto meglio che non averti. Questo è veramente il significato della vita, no? Dell'amore più profondo, più pulito che vero. Io stavo pensando, quando parlavi proprio dei giovani, che cerchi di inserirti, di capire che cosa c'è dietro, come funziona, e quindi cercare di capire anche i rischi che si corrono e perché si corrono. E quindi io volevo chiederti questo, perché ogni tanto ci penso a come questo si possa combinare, ovvero sia, è possibile crescere senza correre di rischi, senza rischiare? Direi di no, credo proprio di no, credo che, non lo so, quando mette al mondo un figlio, credo, io non sono mamma, quindi chiedo scusa anche alle mamme se mi approprio un attimo di questo ruolo, ma credo che sia una sorta di viaggio che un funambolo fa su una corda e in qualche modo devi arrivare dall'altra parte, no? Incrociando le dita e sperando che Dio te la mandi buona. Sì, che la grande morale di questo romanzo tristissimo e anche molto forte, che tocca argomenti molto forti, in realtà è che è vero che ci vuole veramente un po' di fortuna, perché per quanto noi dobbiamo assolutamente fare del nostro meglio nell'educare i propri figli e nel dare il migliore degli esempi, però è anche vero che insomma ci vuole un po' di forza, incrociamo un po' le dita e speriamo che veramente il Signore ce la mandi corretta, ecco. Hai sicuramente ragione, nel senso che io condivido pienamente quello che hai detto, cioè non si può vivere senza rischiare. Il rischio fa parte proprio della vita, forse anche il sale della vita, cioè l'uomo non migliora, non progredisce se non rischia. Rischia e quello che vediamo, che ci danno da bere, sono solo i successi, ma dietro a un successo ci sono almeno un milione di fallimenti di altre persone sconosciute. Quindi le cose, fallimenti che vanno da tutti i tipi, da un fallimento semplicemente un progetto, il fallimento è proprio il progetto di vita, cioè che uno muore o si fa male o comunque finisce o si dispera o ha un problema mentale, cioè i tentativi che facciamo noi per progredire, ma come singoli, io non parlo dell'umanità ma qui del singolo, e sono infiniti ed è vero che ogni momento si può cadere. Per cui questo mi ha fatto pensare al concetto di successo. E non so perché mi è venuto da legare questo al concetto di successo. Chi è una persona di successo? Credo che la risposta, ma te lo chiedo, la mia risposta, quella che mi viene naturale è dire, è già insita la risposta alla domanda, chi è una persona di successo? Una persona, innanzitutto. Cioè uno che è persona tutto tondo e non ha niente a che vedere con i successi lavorativi, con tutto il resto, cioè uomo o donna, quando uno è riuscito a creare se stesso e a formare se stesso come uomo o come donna. Riuscire un po' a vestire i propri panni, no? Stare comodi nella sedia in cui si è seduti, no? Sì. E questo ritorna invece un po' al titolo, questa sedia sbagliata, che è l'idea che ci sia sempre un po' qualcosa che ci dà fastidio, no? L'idea che ci sia sempre un po' qualcosa che vogliamo cambiare, andando proprio nelle piccolezze, l'idea che ci sia sempre un po' qualcosa che non ci sta bene, di cui in qualche modo non riusciamo ad accontentarci, ecco. E questo ci sembra sempre di dover andare avanti, di dover ambire a qualcosa di più grande, di un pochino più su. In realtà forse il successo, come dicevi tu, è riuscire in qualche modo a avere un confronto a 360 gradi con quello che ci sta intorno e riuscire ad avere un luogo, no? Riuscire ad arredare la propria stanza lì dov'è, senza dover andare a cercare chissà cosa, ecco. È vero, quello che mi fai pensare al movimento romantico, allo Sturm und Drang, pensavano allo streben, al tendere, che come idea mi piace molto, quindi bisogna, secondo me bisogna essere ambiziosi, l'importante è capire su che cosa e per che cosa, quindi avere una direzione, una meta lontana, irraggiungibile, è fondamentale, ed è fondamentale non raggiungerla, perché ci indica la direzione, se non la raggiungessimo dovremmo trovarne un'altra per trovarci la prossima direzione. Quello che non mi piace, o comunque che trovavo che non è nelle mie corde, nell'avanticismo, erano i toni forti, quindi il tendere e rischiare tutto per tutto ogni volta. Però il concetto di avere un'ambizione alla vita, quindi di provarsi, di sfidarsi ogni giorno un po' di più, secondo me anche questo è uno non solo un diritto delle persone, ma anche un dovere, quello secondo me, di disegnare, come dicevi tu, arredare la propria stanza, ma cambiarla continuamente. Di arredare e poi dire, non c'è mai una fine a questo arredamento, perché un pezzo lo cambio e lo rimetto. Sì, direi che è più o meno quello che penso, quello che vorrei che trasparisse da quello che scrivo, che comunque la passione, in qualche modo, come dici tu, questa sorta di motore, no, di sale che ci spinge a fare le cose, a migliorarci, è assolutamente fondamentale. Ed è vero che dietro le grandi passioni, se hai vivi delle grandi passioni, vivi anche delle grandi paure. Cioè sono i due lati della stessa medaglia, non li puoi scindere, e quindi in un certo senso il pacchetto te lo porti dietro, no? Tra l'altro quello che accade poi a uno dei tuoi protagonisti, questa sua incapacità di andare al di là di quella carriera, iniziata poi su una sedia sbagliata, tra l'altro. Esatto, tutti i miei personaggi sono secondo me un po' seduti sulla sedia sbagliata, no? C'è quest'idea che, come dire, qualcuno viva meglio di te la tua vita, qualcuno che viva meglio di te le sensazioni che abbia, tutti hanno qualcosa che tu vorresti e ce l'ha qualcun altro, e qualcuno che tu hai qualcosa che magari non sai cosa fartene lì per lì, e invece sarebbe il grande tesoro qualcun altro, ecco. Allo squillo del citofono ti sei precipitata su di lui come se fossi la partecipante di una staffetta. L'hai riattaccato dopo avergli cinguettato qualcosa sopra. Ti ho guardata correre in camera tua lasciando il microfono dondolare le tue spalle. Ho aspettato di vederti volare lungo un corridoio e comparire davanti alla porta della cucina come un ladro inseguito dalla polizia. Poi... 30 seconds remaining. Veloce come un gatto randagio sei sparita di nuovo, mentre io, scrollando il capo, ho abbassato lo sguardo sul lago con cui rammendavo i tuoi vecchi jeans. Sara! Pronto? Pronto, pronto. Sì. Questo è il famoso capitolo 17. Il famoso capitolo 17 che mette a dura prova quasi tutti, devo dire anche gli uomini, non solo le donne. Certo. Purtroppo di... Comunque, insomma, ti possiamo... Che succede? Vediamo se riusciamo a recuperare Sara. Molto probabilmente sì. Probabilmente ma abbiamo sì. qualche minuto ancora, per cui possiamo avremo ancora qualche minuto. Intanto magari possiamo ricordare... Intanto respiriamo. Perché possiamo ricordare... quello che c'è scritto nel libro, insomma, è forte. È molto forte. È un libro che, tra l'altro, dovreste già trovare disponibile presso la libreria Piola. Quindi vi ricordo, Sara Rattaro, Sulla sedia sbagliata, edito da Morellini, editore. Aspettando che Sara possa essere con noi, magari ricordiamo qualche evento e poi cominciamo direttamente con l'imbrangolo. Allora, un evento. Deco... il salone di riferimento, la fiera di riferimento dedicata alla decorazione di interni e di esterni. Ci sono imprenditori, produttori, creatori, distributori, importatori, agenzie nazionali e internazionali. Quindi mi sembra una cosa interessante per chi ama decorare la propria casa e fare della decorazione di interni anche, perché no, un hobby. Quello che diceva poi Sara sull'arredare la propria stanza, quindi cambiare. Io mi ricordo mia madre che ogni tanto, mentre ero ancora al liceo, ogni tanto mi fermava e diceva: invece di studiare vieni a darmi una mano, e cambiava i mobili, li girava da una parte all'altra. Pure la mia, sai, questa mania è girare i mobili, girare i mobili, cambiare. Sì, girare i mobili e è un cambiava mobile. Le cose, vero? Come no, come no? Cambiava la prospettiva, cambiava la certo. cucina, cambiava il salotto, cambiava le varie, anche solo girando i mobili, sì. È incredibile, o girando i mobili e aggiungendo un pezzo, tenendolo in alto, sì, cambiava. E quindi era il modo che lei aveva di dire: sì, questa è una casa, ma è una casa viva, non è una casa morta. Esatto. Non è un punto vivace. Fisso, ma è un punto in movimento. E quindi, beh, per coloro che amano le decorazioni, perché no? Visitate questo salone, il salone, come dicevo, di riferimento. E dunque, all'esposizione di Bruxelles, che sapete dov'è, e quindi solo i professionisti, o meglio quelli che sono del campo, hanno accesso al salone... professionale, ma è diviso in due, e fino al 5 febbraio fino al 9 si poteva registrarsi, poi però no, dopo questa data, quindi ormai è troppo tardi per registrarsi via sito internet, ma potete tranquillamente accedervi oggi e domani pagando una misera somma di 10 euro che per chi ama la decorazione di interni sicuramente ne vale la pena. Lo voglio ricordare che domani dalle 10 alle 17, quindi avete ancora un giorno di tempo, se volete andarci fate uno scappone al pausa pranzo, perché no, sarebbe interessante. Invece, poiché apriamo quella che è la settimana anche dedicata agli innamorati, la famosa settimana di San Valentino, quindi lunedì prossimo, abbiamo scelto uno di quegli eventi un po' particolari, San Valentino allo Scientastic, che pare essere una sorta di analisi dell'amore a microscopio. Quindi per tutti coloro i quali volessero un po' avere delle previsioni sul percorso del proprio amore, Monsieur Via Lactée, quindi il signor Via Lattea, sarà ben felice di scoprire quelle che sono ovviamente le aspettative della vostra coppia. Quindi sono dei momenti effettivamente da condividere con il giusto umore e con la giusta complicità. Tutto questo sabato 12 febbraio dalle ore 15:30 e dalle ore 17:30 è solo su prenotazione. Questo presso lo Scientific Museum Boulevard Aspac. Guarda, allora ci prova anch'io. Provaci anche tu, dai. Shantastic, come fantastic invece è Shantastic. Shantastic, sì, al Boulevard Spack. Sì, il Boulevard Spack dice anche Station Train Metro Bourse. Quindi più di così, insomma, più dettagliati di così. Sottosuolo, livello meno 1 a Bruxelles. E poi ci sarà per tutti i giorni fino al 14 febbraio, dalle 14 alle 17 e 30. Quindi vi raccomandiamo, insomma, un evento molto carino. Poi per chi ovviamente voglia scherzare, ognuno sa che, così come quella stanza di cui parlava Sara, che si arreda a proprio piacimento, anche l'amore è un po' così. Quindi non vi aspettate che gli amori si sviluppino da soli, hanno sempre bisogno di essere curati. Sì, abbiamo già parlato, fra l'altro, di un'altra alternativa al San Valentino. Non mi ricordo, la settimana scorsa abbiamo parlato di un'alternativa, di una esposizione su San Valentino, però in modo completamente diverso, quindi da un'altra angolatura. Adesso non mi ricordo dove lo fanno, ma se andate ad ascoltare una delle nostre trasmissioni, anzi la trasmissione della settimana scorsa o di due settimane fa addirittura, sul nostro sito www. È solo brussellando.blogspot.com senza sì. www. Sì. Incredibile, ha visto che pure di tanto in tanto mi ricordo. Incredibile. Quindi brussellando.blogspot.com trovate la trasmissione della settimana scorsa e saprete anche qual è l'altra offerta su San Valentino. Va bene, siamo tutti orecchi. Allora, un'altra informazione: questa non è più Beirut, è una esposizione di fotografie all'ISELPA, all'Istituto Superiore per lo Studio 31, Boulevard de Waterloo, sempre a Bruxelles. Dunque è aperto questa esposizione dalle 11 alle 17.30 ed è aperta già da qualche giorno, dal 28 gennaio, ma lo sarà fino al 26 marzo 2011. Quindi, insomma, c'è del tempo. Bisognerebbe andare a vedere quello che ha fotografato Fouad El Khoury. Perché cosa ha fatto? Lui è tornato oggi sulle sue fotografie che ha preso di una antica Beirut, Beirut che non c'è più, un progetto che non si è, dal quale non si è mai realmente allontanato. Fotografare Beirut, la città dove ha fatto i suoi primi scatti, una città dove ha vissuto, che ha lasciato per ritornarci poi a più riprese. L'esposizione mescola una prima serie fotografica del 1982, quindi un po' là negli anni, parliamo di 30 anni fa, quando Fouad El Khoury fotografava l'invasione israeliana del Libano. Scatti presi all'inizio degli anni 90, nel momento in cui il centro città di Beirut usciva da pochissimo, da 15 anni di guerra. Oggi Beirut è l'immagine da strada di una città moderna, che brulicante di persone, viva, pronta a rinascere. L'artista testimonia questa ricostruzione e ci rivela questa ricostruzione, questa nuova vitalità di Beirut attraverso le nuove immagini. Quindi in realtà un messaggio di speranza dopo 15 anni di guerra, i primi scatti fino ai giorni nostri in cui la città ricomincia a vivere. E per chiudere la nostra carrellata di eventi dell'agenda bruxellese, Colori d'Orienti, Arti e Arte di Vivere nell'Impero Turco. È una mostra che è iniziata già da qualche tempo, che si concluderà a fine mese, quindi fino al 27 febbraio, organizzato dalla Fondazione Bogusian, che presenta un po' tutti quelli che sono gli elementi salienti delle arti dell'Impero Turco. Quindi ci sono un po' tutte le influenze che si ritrovano attraverso i secoli e che hanno dato tanto prestigio a questo impero affascinante. Questo presso la Villa Ampère ad Avenue Franklin Roosevelt 67 1050 XL, prezzo di entrata 10 euro, ridotto per i gruppi, gli studenti e gli anziani, e 7 euro oppure gratuità per i bambini di meno di 8 anni, tutti i giorni tranne il lunedì dalle 10 alle 18.30. Sara! Eccola qua, ci senti Sara? Sì, ci sono. Molto bene, ci riprovo. Ho aspettato di vederti volare lungo il corridoio e comparire davanti alla porta della cucina come un ladro inseguito dalla polizia. Poi, veloce come un gatto randagio, sei sparita di nuovo, mentre io, scrollando il capo, ho abbassato lo sguardo sul lago con cui rammendavo i tuoi vecchi jeans. Ho aspettato che il rumore asciutto della porta chiusa alle tue spalle mi raggiungesse. Con l'immaginazione ho seguito i tuoi passi giù per le scale fino al portone, Poi la tua voce è risalita dalla finestra finché qualcuno non l'ha chiusa dentro il metallo dell'auto. Se avessi saputo che quella era l'ultima cosa che la vita mi ha lasciato di te, averlo saputo sarebbe stato un regalo immenso, forse il più bello che si possa desiderare. La vita è fatta così, non ti dice mai che sta per finire. Ci penso, sai, è come un gioco crudele che il mio cervello fa quasi da solo. Se l'avessi saputo, avrei fatto, detto questo o quell'altro, e poi un elenco di cose banali, solo per impedirti di uscire. È crudele, ma quel breve attimo all'interno nel quale la fantasia si miscela con la realtà e la percezione del vero si travesti di irreale, riesco a sentirmi sollevata. Incredibile. È come se possedessi il potere di cambiare il passato, ma non dura. Poi piango, sento il peso della colpa e della rabbia che litigano sopra di me. Posso ancora sentire la scia del tuo profumo dolce alla genziana lungo il corridoio. Hai chiuso la porta così in fretta che è rimasto intrappolato qui, con me, per sempre. L'auto è ripartita dopo alcuni istanti. Ho immaginato che stessi baciando il tuo accompagnatore, forse un bacio rubato sulle labbra. Un braccio io, chissà cosa proverebbe tuo padre. Ho sentito il rumore del motore allontanarsi e scivolare lontano nel traffico. Erano quasi le 6 di sera, l'ora delle code, l'ora dei rientri, dove lo stress del lavoro si spalma sul sedile e si ancora alla cintura di sicurezza, dove il giorno sembra lanciarsi in braccio alla notte. Chissà se stavi cantando. La musica era alta perché voi giovani lo fate sempre. Alzate il volume per alzare l'umore. La pioggia era appesa quella sera, e l'asfalto bagnato. Avete superato 2 auto senza mettere la freccia. Non c'era tempo da perdere. Certe occasioni vanno colte al volo. C'era tempo, ma basta accelerare un po' e si guadagnano almeno 10 minuti buoni. Lo sanno tutti. Siete volati lungo il viale alberato dimenticandovi dietro tutto quello che siete stati. La striscia bianca non è riuscita a fermarvi. È solo questione di secondi. I tuoi jeans mi sembravano troppo corti. Dovrai misurarli al tuo rientro. L'avete superata in volata. Era quasi fatta. Forse dovrei buttarli, ma prima devo avere il tuo permesso. Stavano tutti fermi a quel semaforo, tutti impietriti e rispettosi, aspettando che il suono della sirena si allontanasse dai loro timpani, che gli togliesse di dosso quell'odore di ospedale di premura che in mezzo al traffico mette sempre a disagio tutti. Mi alzo e ripiego i pantaloni imbastiti con cura. I loro occhi hanno seguito la luce blu tagliare l'incrocio a tutta velocità. Probabilmente è ora che inizi a pensare a cucinare qualcosa per cena. Le vostre orecchie erano occupate dalla musica e dalle vostre voci squarciate, intente a urlare tutte le verità nascoste nel testo della vostra canzone. Avrò tempo domani per finire gli oli ai tuoi pantaloni. Non l'avete sentita in tempo? No, non l'avete sentita la sirena. Ero stufa di vederli così lunghi che strisciavano per terra i tuoi pantaloni. È questione di secondi. Il gatto mi ha passato in mezzo alle gambe con fare nervoso. Ho pensato che avesse solo fame. La sirena ha smesso di suonare, ma la sua luce blu continuava a girare su se stessa, illuminando attorno i vostri corpi straziati dalle lamiere. Beh, il libro è tutto così, quindi non proseguiamo oltre, perché penso che l'analisi psicologica fornita è... sia effettivamente eccellente. Tra l'altro, in un altro tratto invece del libro fai proprio riferimento ad uno psichiatra, che quindi rende ancora più verosimile la storia. Noi, Sara, ti ringraziamo di aver voluto condividere con noi di Brussellando questa tua prima fatica letteraria. Io ringrazio tantissimo voi, invece è stata una parentesi deliziosa oggi, mi è piaciuto un sacco, grazie. Meno male. Grazie, insomma, di questo contatto, ecco, mi piace molto quando le cose tornano in qualche modo, no? Per una volta non siamo su una serie sbagliata. No, direi di no, assolutamente no. Speriamo di averlo letto decente. Posso dire una cosa piccola piccola? Sì, come no? Sarebbe che le, così, se qualcuno ha in ascolto avrà voglia di leggere il romanzo, che peraltro a Bruxelles si trova in una libreria, la libreria italiana La Piola. E così, se qualcuno appunto avrà voglia di leggerle, avesse voglia poi di contattarmi su Facebook, Sara Rattaro, se così ha voglia anche di scrivermi due righe su quello che ha pensato, nel bene e nel male, io ne sono molto contenta. Come perfetto. No? Noi abbiamo anche bisogno dei tuoi commenti su come leggiamo, perché non è facile leggere. No, non è assolutamente facile, vuol dire che sei stato molto bravo. però è una lettura maschile per un ruolo così femminile, così forte, non è semplice. No. E direi che invece no, direi emozionato, sono convinta che fossimo andati avanti ancora un po', quando arriva proprio quello che morde la pancia e lo stomaco, mi sarei messa a piangere. Abbiamo evitato, guarda. Sì, no, è troppo. Evitato, così siamo, finiamo così, lasciamo in sospeso. Sì. Lasciamo in sospeso, sì. Sara, noi quindi. Sì, scusa, volevi aggiungere qualcosa? No, assolutamente. No, è un eco, guarda, un eco che mi ritorna in cuffia. Eco pericoloso. È pericoloso, sì, il nostro eco. Senti, allora, noi ti ringraziamo, ricordiamo ancora, quindi, Sulla sedia sbagliata, edito da Morellini Editore, ti facciamo i nostri veramente migliori complimenti e auguri e speriamo di sentirti presto. E per quelli che... Voi. Buona serata. Grazie. Ciao, buona ciao. Sera. Ciao. Ciao, buona serata. E per quelli che invece quest'anno si preparano alla maturità, e ce ne sono un bel po' che si preparano alla maturità, leggo solo questo, sempre di Sara. So benissimo com'è fatto l'inferno. Non è come lo ha descritto Dante, non ha nulla a che vedere con tutto quello che abbiamo letto a scuola. Questo però non è una scusa. Dante l'ha imparato. E anche bene. E anche bene, perché volsi così colà dove si può ciò che si vuole, e più non dimandate, ragazzuoli. Bravissimo. Bene. Direi che non è ancora finito, quindi inutile che ti rilassi. Ci ho provato. Sì. 1, 2, 3. Librangolo! Stasera ne ho ricevuta quella cortissima. Allora, e stasera infatti ci sprofondiamo ancora un po' in stranezze. Stasera vi ho portato un rappresentante del Crimilandia. Chissà se abbiamo già parlato di questo. Sì, di Crimilandia, sì. No, di Crimilandia, sì, di questo autore. Di questo autore, so, sì, che ne abbiamo parlato. E di Peter Hawk, che è un, sì. È uno scrittore danese, che, di cui opera più conosciuta è Il senso della signorina Smilla per la neve. Il senso di Smilla per la neve. E infatti, siccome Il senso di Smilla per la neve ha fatto un sacco di successo, ne hanno tratto anche un film abbastanza ben fatto. Sì. E siccome infatti è un libro, sì, atmosferico, per dire il meno, uno è molto curioso, no? E questo è, finalmente ho trovato un altro libro suo che si chiama La ragazza silenziosa. Però devo dire che è una cosa completamente diversa. Cioè, nel senso che... è una storia, di nuovo, che è comunque un po' suspense, perché si tratta di un della ricerca per due bambini spariti, rapiti per delle ragioni che sembrano molto misteriose. Due bambini che hanno delle capacità speciali e che hanno un contatto con questo con il personaggio principale del libro, che è un clown. È un clown di fama mondiale. Quindi, e perché è strano questo libro? Perché il personaggio principale è molto strano e guarda il mondo attraverso un'ottica completamente diversa di quello nostro. Infatti ha un udito molto particolare, lui riesce a sentire la città. Cioè, per esempio, se lui parla per telefono con qualcuno, nel frattempo lui sente, quello è il campanello della chiesa X, quindi quella persona in questione sta là. Cioè, è un sistema di localizzazione molto perfetta e molto speciale, ma non soltanto ascolta la città, ma ascolta anche la gente e la loro personalità, e riesce anche a dire per esempio, cioè sentire i loro umori, ma anche la loro storia personale. Per cui è un personaggio molto interessante, anche la sua ricerca è filtrato attraverso questa musica continua dentro la sua vita, dentro il suo udito, la musica che generano le persone, le situazioni e anche la città. Però tutto questo comunque rende il libro stesso abbastanza confuso, per la ragione per cui, cioè, lui ha delle intuizioni velocissime che noi non riusciamo a seguire. Cioè, lui, per esempio, le conversazioni io le trovavo, cioè, proprio molto, molto confuse per questa ragione, perché sempre sembra come se il libro fosse tre passi davanti a te, tu non riesci a, cioè, quando raggiungi, di nuovo passi tre passi in avanti. Quindi io lo trovavo un po' anche troppo strano per i miei gusti, però una cosa sicuramente non è né noioso né poco interessante. Cioè, è un libro interessante, che per quando voi avete bisogno o voglia di leggere una cosa un po' particolare, strana, vi raccomando con calore. Questa tecnica di scrittura, per cui sembra sempre che il libro sia un po' più avanti, riesce a dare, a rendere l'idea di una persona come questa persona descritta, che ha sempre delle intuizioni? Perché in realtà a tutti capita di avere a volte il pensiero che va più veloce della parola, quindi ci si incastra perché il pensiero è un modo, questo, che riesce a rendere quella sottospecie di ansia, di confusione che si ha quando il pensiero va troppo veloce, quindi si perdono particolari e si è già lontani, mentre in realtà si è bloccati qui, ma con la mente siamo molto più là. Allora, secondo me piuttosto dà la sensazione di quelli che gli stanno attorno. Cioè, non è la sua confusione, lui non è confuso. Per lui tutto questo mondo suona chiarissimo, cioè non si vede chiarissimo, si suona chiarissimo, e quindi la confusione non è sua, la confusione è la nostra che guardiamo mentre lui schizza via come un razzo particolare. È un libro interessante, questa cosa mi stimola, questo libro che schizza via prima di riuscire a essere letto, insomma, non male. Ecco, quindi adesso ce le ho nelle mani, però lo tengo stretto perché altrimenti schizza via. E lingua? Io l'ho letto in inglese, ma non ho avuto oggi il tempo purtroppo di verificare se è stato tradotto in italiano. Sarà Peter Hoag, che si scrive H-O-E-G. Sì, penso sia tradotto in italiano, girl, molto popolare in Italia. Vabbè, sì, certo. Cioè La ragazza silenziosa. Bene. Se questo è il titolo italiano, chi se questo sabe? È il titolo italiano. Probabilmente è abbastanza famoso per chiedere che il titolo sia esattamente quello e non un altro. Speriamo. Bene, noi siamo alla fine anche di questa puntata, che è stata effettivamente ricchissima. Vi auguriamo un'ottima settimana, vi auguriamo di trascorrere un buon weekend, a quelli in coppia, a quelli scoppiati, a quelli che forse diventeranno coppia. Quelli che non sono accoppiati, scoppiati. Quelli che non sono accoppiati. Quelli sono single e anche proudly single. Of course, no, mica perché bisogna essere per forza tutti accoppiati, ci mancherebbe, assolutamente. Comunque, San Valentino è un giorno soprattutto d'amore, quindi noi auguriamo tanto amore a tutti coloro i quali che ci ascoltano. Salutiamo sia Fabio che Sara, che hanno alietato la nostra serata. Ringrazio Dani MRG, il nostro George Fiordaliso, e a martedì prossimo. E ciao a tutti quanti.